E passiamo a raccontarvi un po' quello che è successo al convegno che si è tenuto questo fine settimana, questo lungo fine settimana, sabato, domenica e lunedì a Firenze, al Giardino dei Ciliegi, che è uno spazio femminista storico aperto nell'88 nel capoluogo toscano, che poi ha subito, come dire, un po' di peripezie e di traslochi, ma che insomma poi ha trovato una sede stabile negli ultimi anni. E che questo fine settimana ha ospitato il convegno Archivi dei sentimenti e culture femministe dagli anni 70 ad oggi. La presentazione complessiva del convegno la trovate appunto sul blog del martedì, perché l'abbiamo fatta la scorsa settimana. E adesso un po' a braccio, insomma, vi raccontiamo quello che è successo in questi giorni. Partendo dal dire che è stato un convegno molto partecipato, tante le presenze, un centinaio di donne e per uno spazio che non era separatista, ma che non ha visto nessuna presenza maschile in tre giorni. Partecipanti, come dire, partecipanti è una parola ampia per questo convegno, perché non c'era, come dire, una divisione tra relatrici e pubblico, ma si trattava ovviamente di un evento, insomma, partecipativo, in cui si lavorava in maniera intercambiabile, stando davanti o dietro il tavolo, lavorando in gruppo, ascoltando e discutendo quello che le altre dicevano, e che soprattutto metteva insieme generazioni molto diverse. Insomma, era abbastanza netta la costruzione generazionale di questo incontro, perché c'era, sia appunto parlando di dagli anni 70 ad oggi, c'erano protagoniste dagli anni 70 ad oggi, quindi sia quella generazione che ha fatto il femminismo degli anni 70, sia le generazioni intermedie, di chi oggi ha 40 anni, cioè da 40 ai 50 anni, che una generazione di più giovani che, come dire, almeno per le presenti, in alcuni casi si distinguono anche nel posizionamento politico, perché appunto molte di quelle che hanno parlato si sono appunto poste come transfemministe o queer. La giornata di sabato si intitolava Autobiografie in politiche, memoria e riletture, rileggere il tempo, ed era organizzato in tre sessioni, ognuna delle quali aveva la stessa struttura, nel senso che c'era una relazione più lunga che dava appunto dei temi, e poi c'erano militanti femministe e lesbiche che in qualche modo raccontavano la propria esperienza, il proprio percorso personale, politico, singolare e collettivo, riconnettendosi ai temi della sessione. Oh, Henry, you broke my heart, and you've been doing me wrong. Nella prima sessione si è parlato di percorsi che hanno anche, come dire, una collocazione geografica precisa, cioè quella della Sicilia occidentale. La relazione intorno a cui si articolava questo percorso di Emma Baeri, che è una storica che ha scritto l'istoria del femminismo, Sessualità e cittadinanza come un lavoro a maglia, era il suo titolo. Oh, Scrive Emma: se il contenuto del patto di cittadinanza, diritti e doveri, garanzie e vincoli non è rivolto a un individuo astratto universale, ma a una persona con un corpo di donna, cambia qualcosa? C'è forse un resto? Quale sarebbe la sostanza di questo resto? E in quale forma potrebbe essere costituzionalizzata? Insomma, come può configurarsi un differente nesso tra diritto e diritti, tra libertà e tutela, se la cittadina afferma il suo diritto, un diritto impensato ancora? A portare nella polis l'intera esperienza del suo corpo biostorico? Ed Emma dialogava con due femministe appunto della stessa area geografica che hanno interconnessi i propri percorsi, come del resto poi fanno nella vita, perché fanno parte dello stesso collettivo femminista che si chiama Volta Pagina e che abbiamo sentito anche da questi microfoni il 25 novembre. Nella seconda sessione si parlava di lesbismo, queer, la relazione intorno a cui era articolata questa sezione partiva dalle politiche radicali del lesbismo dagli anni 70 a oggi, in particolare su quelle degli anni 70-80, di messa in discussione del genere e di messa in discussione dell'eterosessualità, dell'eterosessualità obbligatoria, come quell'istituzione che costruisce la binarietà di genere. E poi appunto due esperienze personali e collettive portate da due compagne, una Piera di Brescia, che abbiamo sentito più volte da questi microfoni, che fa parte di un'associazione lesbica, Pianeta Viola, che ha raccontato come qual è stato appunto il percorso del collettivo di cui lei fa parte da una ventina d'anni, mettendo in campo tematiche rilevanti quale quella delle differenze e della conflittualità all'interno dei collettivi. Olivia poi è una compagna queer, anche lei tante volte ospite di questi microfoni. Puntato lo zoom sull'interconnessione tra affettività e lavoro, la messa a produzione delle nostre vite, soprattutto delle vite di quelle generazioni di fatto non hanno accesso al lavoro perché non hanno accesso a attività a cui corrisponde un salario preciso. Si parla insomma di chi ha meno di 40 anni oggi. Transformé, bariolé, le visage déguisé, grimaçant, les deux rives se regardent hargneusement, les deux rives se regardent hargneusement, les deux rives se regardent. La terza sessione, Joan Anim Addo era la donna che ci ha, la femminista che ci ha offerto insomma le sue riflessioni intorno a cui costruire le riflessioni del pomeriggio. Si tratta di una donna afro-caraibica, immigrata di prima generazione in Inghilterra, a Londra, che oggi è docente di letteratura caraibica alla Goldsmith Università di Londra. E ovviamente insomma la tematica di lei, donna migrante, nera, femminista, era l'ossatura intorno a cui si è dipanato il discorso, un'identità costruita appunto di come donna migrante nera, che al contempo oggi è londinese e caraibica, che al contempo tempo, è una docente universitaria, ma sua nonna non sapeva né leggere né scrivere, quindi, come dire, il suo era un discorso intersezionale tra razza, classe e genere, e ci ha raccontato appunto dello scambio e del conflitto con il femminismo bianco quando lei è arrivata nel Regno Unito. In particolare ha raccontato, insomma, come ha costruito due numeri di una rivista femminista inglese, Feminist Review, che è una, come dire, un caposaldo del femminismo pre-postcoloniale, cioè quello che ancora non prendeva in considerazione la voce delle altre che arrivavano da altre parti del mondo, e di come con tante difficoltà è riuscita a costruire due numeri sul Black Feminism in quella rivista. Poi di una sua opera, Imoinda, la riscrittura di Oronok di Afra Ben, un'opera che celebra il nascere della nazione creola e il recupero della storia delle donne nere creolizzate. Il percorso e le difficoltà di costruire una storia delle donne africano-caraibiche anglofone. Una giornata molto ricca, una discussione finale molto partecipata in cui si è discusso molto di lavoro. Si è discusso di lavoro appunto partendo dalla distruzione neoliberista delle garanzie di lavoratrici e lavoratori della messa a produzione delle nostre vite da parte del capitale, anche con partecipazione e sensibilità molto diverse, sia dal punto di vista generazionale, appunto, di chi si è trovato a lavorare negli anni 70 e 80 e magari oggi è in pensione, chi invece ha fatto l'esperienza del precariato, chi lo fa ancora e chi fa esperienza invece di un lavoro che non corrisponde più a nessun salario. Anche le sensibilità politiche, diciamo così, erano molto articolate, molto diverse le une dalle altre. E queste tematiche hanno preso anche tutta la seconda giornata, quella di domenica, in cui ci sono stati due workshop che si sono articolati e intersecati per tutta la giornata. Relazione e assetti politici nelle forme di intimità era uno, condivisioni, lavoro, cittadinanza, spazi e tempi era l'altro. Abbiamo cercato, insomma, di riportare la voce di chi ha costruito e condotto questi workshop, ma oggi non è stato possibile. Magari lo potremo fare un altro martedì, visto che non abbiamo la fregola di così della cronaca necessariamente. We were young, we didn't care. Is it gone? Is it gone? Is it flowing in the air? Lunedì poi, cioè ieri, archivi imperfetti dal passato a oggi, con la presenza di Paola Di Cori, una storica femminista italo-argentina, Vincenza del blog Marginalia, con cui tante volte abbiamo parlato da questi microfoni, E poi una tavola rotonda articolata su quattro testate femministe che hanno contribuito molto alla storia del femminismo in questo paese. Vi lasciamo ascoltare un brano musicale e poi torniamo in voce con Federica Paoli, che a questa tavola rotonda ha partecipato parlando della rivista Differenze, una rivista che è uscita 12 numeri, mi sembra, insomma, chiederemo ragguagli a lei, alla fine degli anni 70, e poi quindi ascolteremo lei. Intanto vi facciamo ascoltare un brano musicale. Eccoci di nuovo in voce, martedì autogestito da femministe e lesbiche. Siamo in corrispondenza con Federica, ci senti? Sì, ciao, eccomi qua. Ciao, buonasera. Ti ringraziamo, insomma, di aver accettato il nostro invito, insomma, negli interstizi del tuo tempo, e appunto per parlare con te di questa tavola rotonda che c'è stata ieri a questo convegno a Firenze, Nuove Femministe in dialogo con Federica Paoli, che appunto parlava di Differenze, Anna Scattigno, Memoria e Genesis, insomma, anzi lo lascio dire a te, dai, non ti voglio togliere la parola. Sì. Anna Scattigno ci ha raccontato le sue esperienze in Memoria e Genesis, Anna Maria Crispino invece ha parlato di Leggendaria e Anna Picciolini del Paese delle Donne. Tutto ciò sotto la guida di Paola Di Cori, che ha introdotto la mattinata, e dopo un bellissimo PowerPoint di Vincenza Perilli, che ci ha con le sue immagini e le sue suggestioni poi portate anche su terreni diversi da quelli che avevamo immaginato inizialmente, perché poi è sempre così quando, quantomeno per me, quando mi confronto con le altre donne in presenza accadono sempre fatti imprevisti, per cui il tema era gli archivi imperfetti dal passato a oggi e si doveva ragionare appunto di alcune esperienze editoriali, sia come sono state archiviate sia come sono state trasmesse. Questo Senti, aggettivo... scusa, sì, prima sì. di andare avanti magari presentiamole anche brevemente queste quattro esperienze editoriali, perché magari chi ci ascolta non le conosce tutte, insomma. Certo, certamente. Partiamo da quella più lontana nel tempo, che è Differenze, che tra l'altro è la rivista della quale parlavo io, che è una rivista del movimento femminista uscita tra il 1976 e il 1982, una rivista romana gestita direttamente dai collettivi, quindi come dire, un'esperienza di militanza profondissima e che cercava di dare voce a ogni realtà collettiva, trattandosi diciamo di un'etichetta di cui potevano servirsi vari collettivi romani. E Anna Picciolini invece ha ripercorso, come dicevamo prima, la storia del Paese delle Donne, quindi del foglio, del famoso foglio rosa, perché nasceva diciamo anticamente come quotidiano donna, poi c'è stata la trasformazione al Paese delle Donne e poi dal 2006 l'esperienza è diventata diciamo esclusivamente online, quindi una diciamo un'esperienza interessante soprattutto per il modo in cui lavora la redazione, per cui per una lunga fase si lavorava soprattutto con quello che veniva inviato e con una periodicità serratissima quando si parla di giornali femministi, perché ovviamente una pubblicazione che esce ogni settimana, quando c'è dietro un lavoro militante e di pratica femminista, sembra quasi un controsenso, una cosa impossibile. Infatti Anna lo sottolineava dicendo poi alla fine a un certo punto bisognava fare la rivista e quindi ogni riunione doveva sciogliere poi quel nodo che era appunto andare in stampa. Invece le esperienze che ci ha raccontato Anna Scattigno nascono diciamo più come esperienze di riflessione storica, quindi memoria che nasce negli anni Ottanta e poi Genesis invece legata alla Società Italiana delle Storiche, che oggi si presenta diciamo come una rivista, se vogliamo, accademica, ma che ha dietro invece anche un pensiero forte e la volontà di lasciare anche alle giovani donne, alle giovani ricercatrici la possibilità di creare un discorso sul femminismo che non sia chiuso nelle strettoie di un dibattito solo italiano, per cui abbiamo una rivista che si apre moltissimo ai contributi che parlano dei femminismi, e infatti di femminismi abbiamo parlato tra l'altro ieri. Per finire, ma non da ultima, Anna Maria Crispino con Leggendaria, quindi diciamo una rivista che ha una storia molto lunga, che ovviamente si occupa, lei diceva continuiamo ad aggiornare le mappe del presente, Anna Maria Crispino, quindi sì, letteratura, racconti, narrazioni in un certo senso, e che ha dopo diciamo un primo periodo di legame con noi donne, quando le gambe sono diventate forti, ci ha detto Anna Maria Crispino, abbiamo cominciato a camminare da sole, ma l'autonomia si paga carissimo, insomma, quindi abbiamo avuto i racconti di esperienze vissute comunque tutte in prima persona, quindi di come queste riviste, fare le riviste delle donne sia comunque possa essere un atto di militanza e di fortemente politico, insomma, quindi questo è stato il racconto delle esperienze. Diciamo, io sono l'eccezione perché il mio era uno sguardo più da storica, tra virgolette, anche se appunto la mia formazione è leggermente diversa. E quindi diciamo piene di tutti questi racconti abbiamo ragionato sui pieni e i vuoti del femminismo, sulla necessità di prendersi cura anche di quello che è stato, di certe narrazioni, di certe esperienze, e della necessità appunto, come diceva Anna Maria, di costruire delle mappe per capire dove siamo e di interrogare questi archivi imperfetti con le domande giuste probabilmente, perché poi nel corso del dibattito è emerso un po' questa difficoltà continua che c'è tra noi femministe di raccontarci le cose, un po' anche di accettare le nostre differenze, non solo generazionali, ma anche di approccio alla pratica politica. E quindi, insomma, abbiamo ragionato della responsabilità della scrittura, del fare storia, della necessità di ragionare dei conflitti, delle discontinuità, delle rotture, comunque sempre con l'idea di, come dire, di prenderci cura di un patrimonio di saperi delle donne. Ecco, questo mi sembra un po' il... Senti, il messaggio che è passato, insomma. Che si intende o cosa intendi tu per archivi imperfetti? Perché sono imperfetti questi archivi? Guarda, per me, ti rispondo a titolo personale, perché questo aggettivo mi ha immediatamente solleticata, scossa, perché imperfetti, perché in divenire, perché in continua trasformazione, perché non sono quello che fino a 15-20 anni fa, forse anche 30, poteva essere considerato l'archivio di Stato, il luogo delle carte polverose, del non lo so, appunto, le carte di Stato chiuse in una stanza buia. Gli archivi imperfetti e gli archivi del femminismo sono archivi che si arricchiscono di materiale vivo, perché può esserci conservato dentro il materiale grigio, i volantini, ma anche un abito, un oggetto, un non so, un teatro di burattini o qualsiasi cosa ci possa venire in mente, che noi mettiamo da parte con l'idea che vogliamo raccontare delle storie, che abbiamo bisogno di lasciare delle tracce. Quindi imperfetti in questo senso. Poi ovviamente a me viene anche da dire imperfetti, perché purtroppo a volte non c'è la possibilità di curarli come vorremmo, insomma. Però la parte bella dell'imperfezione è questa, del divenire continuo, insomma, del non essere chiusi e finiti in loro stessi, insomma. Sì, che è, come dire, la ricchezza e anche la difficoltà di tutti gli archivi di movimento, insomma. Questo riguarda gli archivi del femminismo, del lesbismo, ma anche dei movimenti in generale, perché poi in genere chi va a aprire quelle scatole è qualcuno che ha, in questo caso qualcuna, che ha, come dire, un coinvolgimento, che ha un posizionamento, che a sua volta si definisce femminista e che quindi le legge anche attraverso la lente del proprio posizionamento politico e della propria esperienza, della propria lotta. Questo certamente, infatti, un po', diciamo, come dire, poi la mia voce raccontava questo, perché delle donne sedute al tavolo io ero l'unica che per motivi puramente anagrafici, visto che sono del 78, in certe esperienze non le ho vissute, ma ho desiderato conoscerle attraverso, appunto, un lavoro negli archivi. Poi non è un caso, no? Cioè, si può scegliere in tanti modi di entrare in contatto con i movimenti, col femminismo e col lesbismo. Scegliere di farlo attraverso le carte è una scelta che a volte si fa per un desiderio personale di conoscenza, per una passione politica, che passa anche dal piacere che si ha nell'entrare in contatto con certe carte. Quindi sì, assolutamente, come dire, andare a contaminarsi con certi materiali, farsi attraversare, che poi è la bellezza e la difficoltà di chi, come dire, prova a fare storia dei movimenti. Quindi la scommessa che si fa è questa, quella di lasciarsi anche modificare, attraversare da quello che si studia, imparare a narrarlo. L'ha detto Paola Bono a un certo punto in uno degli interventi della tavola rotonda: accettare la parzialità, controllare il pregiudizio, mettere all'opera le relazioni e non soffocare la propria soggettività facendo un passo al lato. E questo, secondo me, come dire, è veramente una sorta di piccolo decalogo per chi vuole mettersi in relazione con questi archivi imperfetti, perché comunque hanno tanto da dare, ma ti chiedono tantissimo a livello di compromissione personale nella ricerca. Non puoi assolutamente rimanere neutro, non ne uscirebbe nulla, non riusciresti a porre le domande ai documenti, non credo, almeno la mia esperienza mi insegna questo, che poi toccare certe carte, leggere certi materiali ti deve, ti smuove per forza, insomma, e se non ti smuove probabilmente allora non è, non era quello che dovevi fare. Sì, forse vita, hai sbagliato ricerca, insomma. Sì, ecco, probabilmente sì, perché questo è chiaro che è così, insomma, c'è dentro un tale portato umano, proprio perché tra l'altro quando si decide di scrivere, il femminismo ce lo ha insegnato molto bene, si fa un atto di comunque di potere in un certo senso, rispetto, ci si arroga un diritto rispetto alla pratica politica che si fa, e quindi come dire, poi chi va a leggere quegli scritti ne deve tenere conto dello sforzo enorme che c'è stato da parte delle militanti per scrivere quei documenti, quindi serve rispetto, e poi a un certo punto si vola alto, secondo me, perché nel momento in cui poi entri veramente in contatto profondo con certe scritture, penso che la forma mentis cambia, e io l'ho vissuta come un cambiamento assolutamente positivo e necessario nella mia esistenza. Quindi poi ovviamente ieri non sono mancate, come dire, anche l'emergere di questioni e di attriti rispetto ai discorsi classici del femminismo, nel senso la trasmissione, il noi e voi, l'essere in realtà contemporanee, anche se ci sentiamo donne di, siamo donne di generazioni diverse, però io trovo che siano tutti conflitti necessari e utili affinché il dibattito continui e continui ad arricchirci. Insomma, io sono tornata a casa felicissima, ecco, nel senso, poi la sensazione era di grande pienezza, visto che siamo partiti dai pieni e dai vuoti, era di grande pienezza, quindi insomma una bella mattinata, ecco, piena di pensieri. Ah, poi una cosa che mi piacerebbe raccontare, che è stata un'idea che hanno lanciato Vincenza Perilli e Paola Di Cori, l'idea di costruire un alfabeto dei femminismi, quindi di farne una mostra, di immaginare, di portare in giro per l'Italia un lessico, cosa ci unisce, cosa ci divide, quali sono le cose in comune che vogliamo dire di noi che siamo femministe, insomma. Questo è un po' quello che è emerso e che io ho visto ieri, che ho vissuto ieri. E ci sembra, insomma, molto interessante, ovviamente ne ritorneremo a parlare. Noi ti ringraziamo di questa tua partecipazione radiofonica, insomma, al martedì, se non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no, insomma, ci sarà modo di risentirci. Va bene, no, io ti ringrazio tantissimo, è stato bello, come dire, raccontare la giornata di ieri, proprio perché è stata piena, ricca, imperfetta e quindi in divenire, e quindi sicuramente porterà ad altre cose importanti e belle. Grazie. Grazie Elena, ciao. Ciao. Ciao. www.ilgiardinodeciliegi.firenze.it è il sito su cui trovate, vabbè, il programma del convegno che c'è già stato, e trovate però anche una sezione letture dove appunto si possono scaricare alcuni documenti, riflessioni, materiali di lavoro. Il convegno si è concluso anche così, con un appuntamento già pronto di confronto intorno agli scritti politici di Audre Lorde, appunto una femminista lesbica, nera, guerriera, madre, non ricordo l'ordine in cui metteva questi nomi Lorde per definirsi. Sarà il 21 febbraio, ci sarà modo di riparlarne.